sono un cultore, come forse saprete, di libri gialli. Ma visto il livello quantitativo della produzione odierna, non posso seguire, anche se mi piacerebbe, tutti i sottogeneri paralleli. Per esempio, leggo pochissime spy stories. Sarà per questo, suppongo, che mi trovo poi un po' in imbarazzo di fronte ai misteri spionistici che caratterizzano sempre più spesso la vita politica nazionale. Ci sono delle vicende che sarebbero chiarissime a qualsiasi lettore assiduo di Le Carré o di Stephen Gunn, e ai miei occhi appaiono come indecifrabili puzzles, come la classica favola raccontata da un idiota, quella che, pur essendo piena di strepito e furore, non significa dal fine della fiera assolutamente nulla. Così apprendo dai giornali di questi giorni che il senatore Guzzanti, che ha presieduto nella passata legislatura la ben nota commissione Mitrokhin, nel tentativo di dimostrare che Romano Prodi o altri suoi pari sono stati o sono agenti del KGB, della ben nota organizzazione spionistica della compianta Unione Sovietica, si è esposto con sprezzo del pericolo a molteplici contatti con gente che il KGB lo aveva frequentato anche troppo, fino al rischio di essere contaminato da quel polonio 210 di cui nel mondo dei servizi segreti russi pre, post o post sovietici si fa tanto uso. Si è poi scoperto, mi sembra, che quella contaminazione in realtà non è avvenuta. E questo non può che farci piacere, perché una vita umana è sempre una vita umana, e sarebbe un peccato comunque se il nostro Parlamento dovesse fare a meno di un personaggio dal sicuro talento comico come il senatore in questione, che, come avrete notato anche voi, da questo punto di vista surclassa le performance di ogni altro membro della sua famiglia. Il particolare per cui la prova incontestabile della militanza dell'attuale Presidente del Consiglio sotto le bandiere dello spionaggio sovietico sarebbe rappresentata dalla sua partecipazione all'epoca del caso Moro a una seduta spiritica è una di quelle che rivelano il genio. Io che anni fa ho collaborato con Massimo Cirri e Sergio Ferentino alla stesura di un radio giallo comico demenziale, in cui molte cose assurde si dicevano appunto sul KGB, non ci sarei proprio mai arrivato. Non è questo il problema, naturalmente, ma ammetterete anche voi che è interessante il tentativo di collegare il buon Prodi a quell'organizzazione. Tanto più interessante, in quanto passati ormai definitivamente i tempi del generale Grubo Zabifikov, quello che dalla Russia con amore metteva a punto la trappola ai danni di James Bond, il KGB ormai non fa più paura a nessuno. Non è un caso se lo stesso Ian Fleming, dopo avergli attribuito svariati progetti di tipo più o meno apocalittico, già nel 1961 ha smesso di servirsene come spauracchio e sostituendolo con un'organizzazione privata e quindi incontestabilmente più efficiente e spietata come lo Spectre. E forse prevedeva che nel futuro dalle sue file sarebbero usciti, dalle file del KGB, sarebbero usciti i migliori amici dell'Occidente, gli autentici responsabili della fine dell'Unione Sovietica. Di fatto, ricorderete, era stato capo del KGB quel Yuri Nikolaevich Andropov che, insediatosi alla segreteria del partito e al vertice del Presidium nel 1982, spianò la strada a Gorbaciov e a tutto ciò che costui avrebbe combinato. E la stessa carica, naturalmente, è stata poi appannaggio di quel Putin che tanto ha fatto per un sano sviluppo del capitalismo in Russia e tanto spesso è stato ospite in villa del nostro Berlusconi, che ha, credo, più volte negato qualsiasi contaminazione del suo amico con il regime precedentemente in vigore a Mosca. Se Prodi avesse servito ai suoi ordini, agli ordini di Putin, dico, non a quelli di Berlusconi, oggi potrebbe rivendicare la cosa come una particolare benemerenza per la causa dell'anticomunismo. Scherzo, naturalmente, e forse non dovrei, perché i servizi segreti sono per definizione delle organizzazioni con le cui procedure e con le cui finalità non è il caso di prendersi troppe confidenze. E l'ipotesi per cui essi possano controllare in un modo o nell'altro questo o quel dirigente politico altrui, è tutt'altro che peregrina. Più in generale può darsi benissimo che tutte queste storie, pur insensate che possano sembrare, un loro senso ce l'abbiano, magari destinato a orecchie diverse dalle nostre. Ma è anche vero, per lo stesso motivo, che quella di collusione con un servizio segreto qualsiasi è l'accusa più a buon mercato che si possa lanciare contro un avversario politico o no. È un'accusa puramente di tipo puramente autoreferenziale, costa pochissimo nel senso che nessuno sospetterebbe possa mai essere provata, se no di che razza di servizio segreto si tratterebbe, e che nessuno per simmetria può dimostrare falsa al 100%. Per questo i particolari possono essere vaghi, persino un po' ridicoli, e il contesto politico può essere preso indifferentemente dalla cronaca geopolitica contemporanea o da un romanzo di 50 anni fa. L'Unione Sovietica non esiste più, una prece, ma il KGB mantiene comunque una sorta di realtà immaginaria che gli permette di fare sempre notizia. Tutto questo naturalmente ci rimanda a una forma piuttosto ignobile di lotta politica, ma cosa volete che importi? Chi si occupa di queste cose per l'ignominia ha un affetto particolare ed è inutile sperargli di fargli impressione. È meglio rispondergli tutto sommato con una buona risata.